Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Biacchessi e la nuova puntata di Italia in controluce, quando sono le 13, 32 minuti e 23 secondi. Italia in controluce vi parla di cronaca, ma non solo. A 15 anni dall'uscita di un libro chiamato Mafia a Milano, tre giornalisti milanesi, Mario Portanova, Giampiero Rossi, Franco Stefanoni, tornano in libreria con una nuova versione di questa importante opera, direi la prima, qualcosa di più di una semplice nuova edizione. Nel frattempo molta storia di Milano è stata scritta dalle inchieste, dalle rivelazioni, ma anche dall'estendersi della criminalità mafiosa nel capoluogo lombardo, nel suo hinterland. Paolo Piacenza ha intervistato per Italia in controluce Giampiero Rossi e gli ha chiesto il senso di questa opera. Sono passati 15 anni da quando noi siamo usciti con un primo libro che si chiamava Mafia a Milano. Nella nuova edizione attuale abbiamo ripreso molte parti di quello che c'era, ma in realtà non è bastato aggiornarlo, ma abbiamo dovuto proprio riscriverlo e completare interi capitoli anche di vicende datate 30 anni fa, che solo oggi hanno trovato nuova luce di conoscenza, di verità, di rivelazioni, di conferme giudiziarie e storiche su come sono andate certe vicende. E l'esigenza ce l'ha dettata comunque la cronaca, come fu allora, come fu nei primi anni 90, anche in questa prima decade del 2000, il fenomeno, la presenza criminale di tipo mafioso in Lombardia è tale ed è così vivace che ha imposto un nuovo racconto. Noi abbiamo continuato a seguirla e ci è sembrata ancora più inquietante, anzi devo dire che noi stessi, riconfrontandoci con i materiali raccolti, ogni tanto trovavamo delle cose che ci facevano sorridere amaramente per l'ignavia di tanta gente, ma anche molto allarmare, perché non è più così fuori dal mondo considerare la Lombardia una regione di mafia quasi alla stregua di quelle meridionali. Che cosa è successo negli ultimi 30-40 anni a Milano? Quali sono le fotografie che si possono scattare sul fenomeno mafioso a Milano? A me viene facile seguire la scaletta che ci siamo dati noi con i capitoli di questo libro, cioè un primo capitolo si chiama, guarda caso, Radici, cioè l'arrivo del primo boss a Milano, che veniva dall'America tra l'altro, era un campano, Joe Adonis, era il numero 2 di Lucky Luciano. Quando muore Lucky Luciano, lui si trova a Milano in via Albrici, impianta qui la nuova centrale di Cosa Nostra per il riciclaggio, investe in supermarket, immobili, nightclub eccetera, e inizia anche la droga in quel periodo, e arrivano poi i sequestri di persona, Luciano Liggio, intanto ci sono già i calabresi in provincia, poi si arriva alla stagione dei gangster alla milanese, i Turatello, gli Epaminonda, che hanno addentellati con la mafia, non sono propriamente mafiosi affiliati, stiamo parlando ancora di mafia siciliana in quel momento come prevalenza, come marchio, ma cominciano anche loro però a lavorare in cooperazione di fatto, in quel stesso clima, con coperture o comunque con interazioni con le grandi famiglie catanesi e palermitane. E abbiamo il periodo in cui è la finanza il terreno vero di conquista, non dimentichiamoci anche capitoli storici a livello nazionale, non solamente territoriale, come quello di Sindona, il Banco Ambrosiano. Qui, tasto delicato perché è ancora attuale, arrivano i padrini della cupola, della commissione cosiddetta della Cosa Nostra palermitana negli anni 70, e attraverso un certo stalliere Mangano sono in contatto con Silvio Berlusconi, imprenditore rampante del periodo dei primi anni 70 con l'immobiliare, poi con le televisioni. Un'altra immagine, i quartieri che con le grandi migrazioni, i quartieri della periferia, a cavallo con gli anni 80, insomma, diventano terra senza controllo delle istituzioni, ma che pian pianino diventano terra di controllo di alcuni gruppi criminali. E così si arriva a un quadro molto vicino a quello dell'attualità di questi giorni, che è una ramificazione a questo punto a prevalenza calabrese di 'Ndrangheta su tutto il territorio, non solo milanese, ahimè, ma anche lombardo, e con allarmanti contatti con la politica, la pubblica amministrazione e alcuni interessi economici ormai proprio radicati. Ci sono alcune costanti e direi che quelle che colpiscono di più anche in termini di interessi sono la presenza continua della droga, in particolare della cocaina, e poi il ruolo del settore edilizio. Sì, questi sono, sembra... Le costanti sono tante, anche noi stessi ci siamo sorpresi riconfrontandoci le carte, le ricostruzioni che trovavamo, le inchieste. Ci sono intanto, una cosa curiosa, alcuni cognomi, alcuni indirizzi, numero civico e via, che ritornano a distanza di 40 anni. Ci sono alcuni cognomi, famiglie, siamo la terza generazione, la seconda abbondante, e abitano lì, in quell'indirizzo lì, in quel paese lì dell'Interland milanese o in quel quartiere di Milano. Poi le altre costanti sono di natura, esatto, di settore, il movimento terra, le costruzioni, negli anni 60-70 accompagnavano i soggiorni obbligati di certi capi mafia le migrazioni naturali, che erano per lo più bracciantili dell'edilizia. Immaginiamo il boom economico, quante braccia arrivavano dal sud, ed erano in qualche maniera in grado poi di creare un'osmosi, un collegamento con l'ambiente, riproducevano l'ambiente, insomma, attorno a quel tal boss, a quella tal famiglia. Adesso sono attività più sviluppate, sono proprio imprese, sono lavanderie, e esercitano anche un controllo minaccioso del loro settore, cioè non si muove una zolla di terra per il movimento terra che non sia di un'impresa in qualche maniera gradita ai clan calabresi. Ci vi assicuro, sono allarmi lanciati da autorevolissimi personaggi, rappresentanti di istituzioni, da procuratori, poliziotti, e anche il governatore della Banca d'Italia Draghi poche settimane fa a Milano sull'economia lombarda ha lanciato un allarme molto forte. C'è invece una sottovalutazione di questi allarmi, quantomeno nella lettura di un fenomeno che viene dato a volte per presente, a volte per assente. Chi è l'autore di questa sottovalutazione? Quali sono gli autori di questa sottovalutazione? La lista di nomi e cognomi sarebbe lunghissima, ma adesso non è il caso mettersi lì, non è criminalizzare, accusare quella figura istituzionale o quell'altra, sebbene le responsabilità di chi è in sella ci sono. Io non l'ho capito, è una domanda che mi faccio anch'io. Negli anni c'è stata un po' di sottovalutazione o ingenua o spaventata del dire: ma no, ma sì, qui c'è qualche mafioso ma non c'è la mafia, oppure qui sì, la mafia viene a riciclare perché qui ci sono i soldi. Ora è vero anche questo, ma è vero purtroppo molto di più: ci sono i soldi, c'è qualche mafioso, ma c'è anche la mafia che ricrea condizioni da territorio mafioso, e chi ci vive a contatto lo sa. Abbiamo mille esempi di imprenditori o di uomini delle istituzioni che si sono piegati o con le buone o con le cattive, perché hanno tratto vantaggio o perché hanno evitato di subire conseguenze che hanno temuto, sono piegati alle logiche mafiose, né più né meno, come avviene a Corleone, a Platì o a Locri. Non capisco io stesso perché all'indomani dell'allarme lanciato dal governatore Draghi, che non è accusato di essere un bolscevico sovvertitore dell'ordine, il nostro vice sindaco, per fare un nome, l'allarme lo traduce in allarmismo, allarmismo e orologeria, ha detto. Ma perché? Tra l'altro, decorato, quando noi abbiamo fatto la prima edizione era uno dei nostri, voglio dire, era uno che collaborava, ci credeva in queste cose. Poi il ruolo di governo ovviamente cambia un po' i punti di vista. Io adesso non ce l'ho con lui ovviamente, ma le istituzioni municipali, regionali, territoriali, insomma, sembra quasi che si sentano marchiate di infamia se si dice: guarda, c'è questo problema, invece di prenderne atto per smarcarsene, per mettere in campo le politiche di conoscenza e di difesa possibili. C'è ancora questa idea di dire: no, ma noi siamo puliti. Certo, non sono mafiosi lombardi, non siamo mafiosi tutti quanti, però qui c'è il problema ed è inutile mettere la testa sotto la sabbia. Restando all'oggi, c'è questa doppia presenza, no? Organizzazioni criminali ormai prevalentemente calabresi, ma non solo, che ormai hanno un ruolo ben definito e che però hanno alcune caratteristiche, indirizzi. Quali sono questi indirizzi e caratteristiche? E dall'altra parte c'è anche una società civile che si sta risvegliando. L'anno scorso c'è stata una imponente manifestazione di Libera a Milano. Allora, qual è il senso di questa mutazione da un lato e di questo risveglio dall'altro? Parto dalla fine. Mi viene in mente quella che era la prefazione che scrisse lo stesso Nando Dalla Chiesa 16 anni fa a un libro chiamato Mafia Milano, molto più sottile di questo, e diceva: un tempo i ragazzi che manifestavano contro la mafia a Milano lo facevano con lo stesso spirito con cui manifestavano contro l'apartheid in Sudafrica, cioè una cosa brutta che loro sicuramente detestavano, ma che avveniva molto lontano da loro. Oggi è cambiato, scendono in piazza in tanti, vengono a mille dibattiti, ci hanno già chiamati in tutta la Lombardia, in mille situazioni piccole e grandi, perché sono cominciati a essere consapevoli che ce l'hanno sotto casa, e questo è il grande cambiamento ed è molto bello. Ripeto, la società civile comunque qua c'è e non è svanita nel nulla, quindi questo è incoraggiante. Per quanto riguarda invece l'altro fronte, quello dei cattivi, dei mafiosi, le ultime inchieste, come accennavamo prima, lanciano una luce preoccupante sul versante politico. Stiamo vedendo che aggrediscono le ASL, i consigli comunali, hanno i loro candidati, che col fatto che la gente non dà le preferenze, a volte basta raccogliere 80 preferenze in un comune piccolo e piazzi il tuo candidato anche come primo degli eletti, quindi come consigliere anziano, con prerogative. È ormai una costante questa, ogni inchiesta torna che c'è almeno un approccio consensuente verso la politica. Non può non preoccuparci questo, perché è proprio con l'asse criminalità e politica che il Sud è stato inghiottito da questo mostro, e non possiamo permetterci di regalargli la Lombardia. 13:42 minuti, io ringrazio Paolo Piacenza che ha realizzato questa intervista a Giampiero Rossi, uno dei tre giornalisti milanesi insieme a Mario Pottanova e Franco Stefanoni, autori di questo libro, di questo vecchio nuovo libro Mafia a Milano. E voi sapete che Italia è in controluce, così come più in generale Radio 24 è abbastanza e molto attenta a questa infiltrazione, ai problemi delle infiltrazioni delle mafie nel nord del paese, ma non solo, naturalmente nel nord. Italia in controluce era la seconda edizione, cercateci tutti i giorni su Facebook, su Twitter, oppure comunicate con noi via mail controluce@radio24.it. Torniamo domani alle 6:30 su Radio 24.